Un benvenuto a tutte e tutti a questa seconda puntata di A Rivista Pod, il podcast di A Rivista Anarchica. In questa puntata parleremo del numero 443, il numero di maggio 2020. A presentarlo sarà Paolo Finzi della redazione di A. Nella seconda parte affronteremo il tema della libertà, del potere e del controllo sociale ai tempi della pandemia, a cui è dedicata la copertina del numero. E nella terza parte ospiteremo Laura Pescatori, che su questo numero di A si è occupata di cinque esponenti del canto sociale rivoluzionario, cinque donne: Giovanna Marini, Giovanna Daffini, Caterina Bueno, Paola Nicolazzi e Maria Carta. Ricordo che il numero di maggio è disponibile in versione cartacea e reperibile sul nostro sito www.arivista.org, è anche scaricabile in PDF e leggibile online, sempre sul nostro sito. Ciao a tutti e tutti, siamo qui a presentare oggi il numero 443, maggio 2020, di A Rivista Anarchica. È il nostro primo numero ad avere in copertina la questione Covid. In realtà già nel numero precedente, il 442 di aprile, c'era all'interno un corposo dossier rispetto al quale abbiamo già realizzato il precedente podcast. Questa volta, era inevitabile, la copertina è dedicata alla questione coronavirus ed è una copertina decisamente originale, può piacere o meno come tutto, con la scritta "Resta al sicuro, resta dentro" e l'immagine di una gabbietta con dentro un uccellino. La copertina è stata realizzata da uno dei nostri collaboratori grafici, in questo caso Mario Sughi, che si firma nero su nero, e anche da questo podcast lo ringraziamo. All'interno ci sono ben 14 interventi di varia sensibilità, di segno e di tema diversi tra di loro. E il nostro obiettivo dichiarato è quello di cercare di cogliere e approfondire alcuni aspetti, ripeto, alcuni aspetti dell'attuale profonda trasformazione sociale che è in atto e che viviamo tutti i giorni. Una trasformazione sociale che, a nostro avviso, si può definire sicuramente come autoritaria e liberticida. Di questi tempi serve sempre precisare bene il nostro pensiero e noi ci teniamo a ribadire che siamo, noi della redazione di A, noi anarchici in generale, siamo sicuramente cittadini e cittadini molto responsabili e fin dall'inizio della pandemia abbiamo accettato che in situazioni eccezionali sia possibile anche accettare limitazioni eccezionali della libertà individuale e sociale e nuovi obblighi sociali. Ma questo lo abbiamo scritto con grande chiarezza nel numero precedente e lo ripetiamo anche in questo: non esistono pandemie, guerre o altro che possano legittimare il pensiero unico, il pensiero trasmesso quotidianamente in televisione da virologi, da politici, da persone che pretendono di governarci come se noi fossimo i più stupidi e comunque oggetto di un potere che pensa al nostro bene. Questo noi non possiamo accettarlo e pensiamo, e lo diciamo chiaramente, che il diritto alla critica e al dissenso non può conoscere deroghe, sospensioni o limitazioni. Tanto più da parte di un potere che oggi si vuol far passare come il tutore della salute pubblica, della sanità, del benessere di ciascuno di noi, e invece ha precise e profonde responsabilità non legate solo a qualche forza politica, nell'aver smobilitato per anni la sanità pubblica, favorendo quella privata il riferimento alla nostra Lombardia, dove ha sede da sempre la redazione della rivista anarchica, è assolutamente scontato, ma il discorso è più generale, che questo potere è comunque corresponsabile delle morti e delle sofferenze di tante persone, dell'esposizione di tanti operatori sanitari a rischi mortali, creando una situazione davvero grave anche per ampie fasce della popolazione. Pensiamo agli emarginati, agli anziani, ai precari, agli immigrati, ai carcerati e a tante altre. Per cui, sia ben chiaro, cittadini responsabili sì, ma assolutamente non proni al potere. D'altra parte, noi abbiamo, in tempi recenti, pubblicato un libro su Fabrizio De André che aveva nel titolo una sua frase, che non ci sono poteri buoni, e per noi questa frase non era solo una bella frase musicale e poetica da scegliere come simpatico titolo di un libro. È una profonda convinzione che il potere, qualunque potere, e non per questo non distinguiamo nel giudizio concreto tra i diversi poteri, ma rispetto qualsiasi potere tende a riprodurre se stesso, ad autolegittimarsi e, dal nostro punto di vista, in maniera assolutamente improbabile, può presentarsi come il difensore della salute pubblica. Di alcuni articoli presenti in questo dossier nel numero di maggio della rivista parla successivamente Carlotta Pedrazzini, anche lei come me, della redazione della rivista. Io qui vorrei dedicare l'ultima parte di questa mia presentazione al ricordo di una persona scomparsa, un nostro amico, un nostro compagno, e parlo di Roberto Ambrosoli, morto proprio di Covid all'ospedale Mauriziano di Torino, che è stato un nostro compagno di strada. Lui, nato nel 42 a Milano e poi vissuto per gran parte della sua vita a Torino, è stato l'inventore di Anarchic, questo personaggio strano, strampalato, nero, col cappellaccio, fondato sostanzialmente da Roberto Ambrosoli alla fine degli anni 60, un po' prima del 68, e diventato poi un personaggio di assoluta fama internazionale. Un personaggio anarchico per tanti aspetti, certamente per le sue idee, ma anche per il suo modo di essere concepito nella sua naturale clonazione. Roberto ha disegnato ed è stato il padre di Anarchic, ma ha sempre apprezzato tutte quelle forme di Anarchic che magari non gli piacevano graficamente, ma che si sono autoriprodotte per spontanea germinazione in tutto il mondo nel corso degli oltre 5 decenni da quando è nato. E Anarchic, il cui motto più significativo era "farò del mio peggio", che abbiamo scelto anche come titolo del libro, è il personaggio che è venuto a mancare con la morte di Roberto e che continuerà, e continuerà anche sulla rivista, almeno ogni tanto, per la penna e la matita di altri disegnatori. Un personaggio che ci manca, non solo perché era simpatico, ma perché di sicuro ci avrebbe aiutato a capire, a criticare e anche a lottare a nostro modo in questo mondo difficile per la gestione di un sistema basato sullo sfruttamento, l'oppressione, il contrasto ai diritti delle singole persone e degli emarginati. Quindi è con il ricordo di Roberto Ambrosoli, cui è dedicata con la frase "Roberto, grazie", l'ultima pagina di questo numero della rivista di maggio, e con questo pensiero a questo compagno pensiero al contempo triste per la sua scomparsa, dolorosa scomparsa, ma anche allegro per i grandi momenti di allegria, di capacità di critica che ci ha regalato non solo a noi anarchici, ma a tutti coloro che ritengono che il pensiero critico, che il libero dibattito, che lo sberleffo al potere siano elementi essenziali anche in questa cupa stagione di Covid. La copertina di questo numero 443, disegnata da Nero su Nero, si lega al dossier contenuto all'interno del numero dal titolo L'eclissi della ragione e della libertà. L'approfondimento è composto da 14 interventi di segno e tema diversi che cercano di cogliere e di approfondire alcuni aspetti dell'attuale profonda trasformazione sociale in atto legata alla lotta alla pandemia, una trasformazione sociale in senso sicuramente autoritario e liberticida. Ad aprire questo dossier è Maria Matteo della Federazione Anarchica Torinese con il suo scritto dal titolo Non ci sarà un dopo. Maria in questo articolo si propone di ragionare su cosa sia stata la cosiddetta fase 1 e a questo proposito scrive: la retorica patriottica, la sospensione del diritto di manifestare e scioperare, la trasformazione dei cittadini in sorvegliati speciali, in bambini da sorvegliare e punire, sono gli ingredienti di una ricetta che di nuovo ha solo l'estensione all'intera popolazione. È un'enorme operazione di controllo sociale volta a impedire ogni possibile insorgenza, ogni cenno di protesta. Il governo punta sulla paura, sulla frammentazione sociale, sulla polverizzazione delle relazioni, sull'assunzione collettiva della colpa per mettere sotto controllo militare l'intera società. Poi Maria si addentra nell'analisi del sistema di sorveglianza cinese che in seguito alla pandemia viene considerato non solo efficiente e positivo, ma anche auspicabile. La Cina è più vicina di quanto credessimo, scrive Maria. Le nostre vite rischiano di essere ingranaggi di un gigantesco panopticon senza pareti. Il sistema di sorveglianza cinese è basato su un incessante scambio di dati tra provider di internet e di servizi mobili e le autorità. In Cina ci sono 200 milioni di videocamere di sorveglianza, le più recenti sono dotate di dispositivi di riconoscimento facciale capaci di individuare anche i minimi particolari. Impossibile sfuggirvi. Questi occhi elettronici intelligenti osservano ogni persona nei luoghi pubblici, nei negozi, per le strade, nelle stazioni e negli aeroporti. La sorveglianza globale, strategia vincente contro la diffusione del contagio in Cina e in Corea, rischia di diffondersi ovunque. I dispositivi cinesi e coreani consentono un controllo capillare della popolazione in ogni momento della vita. La fascinazione di questo sistema, la cui efficienza è sbandierata costantemente dai media, sta imprimendo un'accelerazione a processi analoghi, già in corso da tempo nel nostro paese. Un incubo totalitario che grazie alla paura della pandemia viene proposto anche qui, per ora su base volontaria, per ora. Del modello asiatico di controllo generale della società e degli individui si occupa anche Piero Cipriano, psichiatra riluttante e nostro collaboratore, che firma l'articolo dal titolo Psicoepidemia e psicopotere. A questo proposito Cipriano afferma: la fase 2 non è un'accelerazione del regime neoliberale, ma una torsione della democrazia verso il modello totalitario cinese o asiatico. La Cina venderà al resto del mondo il suo modello di stato poliziesco digitale, che si è dimostrato il più efficace nel contenere il virus. Questo virus, questa pandemia, sono una specie di test per vedere qual è il sistema che se la cava meglio. Ebbene, l'Asia ha nettamente messo al tappeto l'Europa e a quanto pare l'America. Asia batte Occidente. Hong Kong, Taiwan, Singapore, Corea del Sud, Cina stessa, dove tutto è iniziato, se la sono cavata con meno contagi, con meno morti e in alcuni paesi, Taiwan e Corea, senza neppure imporre il lockdown. Perché, si chiede Cipriano, perché non hanno messo in campo l'ottocentesca sorveglianza militare nelle strade, i blocchi come in Europa, ma hanno impiegato la sorveglianza digitale. Ecco, loro sono passati meravigliosamente dalla sorveglianza dei corpi, biopolitica, alla sorveglianza delle menti, psicopolitica. Dico meravigliosamente se penso ai desideri di quanti in questi giorni auspicavano il modello di sorveglianza cinese. Cipriano poi mette in luce una generalizzata accettazione verso i modelli di controllo sociale e sottolinea come dallo shock della pandemia e della paura della morte sia nato un nuovo essere umano, un uomo più fragile, scrive Cipriano, disposto ad accettare di vivere da sorvegliato speciale, di vivere tutta la vita esposto, trasparente, protocollato in ogni click, in ogni gesto, in un grande fratello continuo. del prezzo più alto degli sconvolgimenti sociali, economici e politici, pagato come sempre dagli ultimi della scala sociale, si occupa Davide Biffi, che lavora da anni in un'organizzazione impegnata nel sociale e nei servizi di accoglienza delle persone migranti. Nel suo scritto dal titolo Clandestini, richiedenti asilo e senza casa, Davide scrive: Leggo quasi ogni giorno cronache dalle baraccopoli che punteggiano le campagne italiane, da nord a sud. Da qui arrivano continuamente le denunce di chi rileva il rischio dell'esplosione della pandemia in queste indegne situazioni abitative, luogo in cui da sempre è impensabile garantire il rispetto di minime norme di igiene. Manca acqua corrente, i servizi igienici sono contingentati o inesistenti, le persone vivono ammassate l'una sopra l'altra e si improvvisano cucine e mense precarie e pericolose. La beffa per chi vive in questi luoghi è che in tempi di coronavirus non possono nemmeno spostarsi per il consueto tour stagionale delle campagne, che ha le sue tappe fisse in Sicilia, Calabria, Puglia, Piemonte, Lazio, inseguendo il calendario della lavorazione di frutta e di verdura. Spostamenti necessari per racimolare qualche centinaio di euro l'anno e tirare avanti, quasi sempre nell'irregolarità contrattuale, nello sfruttamento, nelle peggiori situazioni abitative, nella speranza che qualcosa prima o poi cambi, si sistemi, che arrivi una buona annata, non solo per frutta e verdura, ma anche per gli esseri umani. Non è migliore la situazione dei migranti che vivono nelle città italiane, prosegue Davide. Numerose sono state le segnalazioni di senza fissa dimora, per lo più stranieri, ma anche italiani, multati e denunciati perché trovati in strada. Drammatico paradosso, una presa per i fondelli. Sappiamo bene che la casa non è un diritto garantito in Italia. La situazione nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati è altrettanto complicata. Anche qui i nodi vengono al pettine. Nodi da anni posti più volte all'attenzione delle autorità preposte, in primis il Ministero dell'Interno e le prefetture. I centri di grandi dimensioni si sono dimostrati più in difficoltà nel gestire l'emergenza. Tante persone sono costrette a convivere in spazi ridotti, con conseguenti difficoltà, si badi bene, non culturali, come troppi vorrebbero far credere, legate alla forzata convivenza, utilizzo di servizi igienici, cucina, spazi comuni. La scarsità di risorse concesse agli enti gestori diventa ancora più evidente ora. Per esempio, non è scontato avere a disposizione un servizio di mediazione linguistica efficiente e continuativo, che è centrale nella prevenzione di malattie virali, per informare gli accolti con la massima cura. Che ne sarà quando tutto ciò sarà passato? Si chiede Davide. Ciò che è stato fino a oggi non mi consente ottimismo. Per i migranti e per i poveri, e per i migranti poveri ancora di più, questa crisi non sarà stata un'occasione. Credo che non cambierà nulla in meglio e che ancora una volta le diseguaglianze tra le persone ne usciranno ancora più accentuate. Se per i poveri italiani e per i migranti con regolare permesso, tra mille difficoltà, qualche forma di supporto verrà forse attivata, per chi vive senza nessun documento la situazione non potrà che restare la stessa di prima, quando non peggiorare. Molti vedranno l'opportunità di togliere questa schiuma dalla terra, questa umanità in eccesso, con un colpo di spugna. La retorica emergenziale ha trovato sbocco nel ricorso alla continua decretazione ampiamente utilizzata ed è lì pronta a essere usata come una clava, ancora di più e sempre di più. Poi conclude Davide un accenno in chiusura alla retorica bellica utilizzata ampiamente per descrivere il tempo del coronavirus. Leggevo l'intervista a un giovane rifugiato siriano in Italia che diceva: Vi sono vicino, vivo con voi questa angoscia, ma la guerra è un'altra cosa. Anche le donne, come spesso accade, si sono trovate a dover pagare il prezzo più alto in questo momento di crisi, sotto vari aspetti. In questo dossier ci siamo concentrati sul diritto all'aborto, che è venuto meno durante il periodo della crisi sanitaria, di quello che è successo sul versante dell'accesso all'aborto e di quello che è successo al diritto alla salute delle donne, ne abbiamo parlato con Eleonora Mizzoni di Obiezione Respinta, una piattaforma autogestita che si occupa di mappare l'obiezione di coscienza in Italia. A Eleonora abbiamo chiesto: da quando in Italia è iniziata la crisi sanitaria legata al coronavirus, voi di Obiezione Respinta avete fatto un appello alle donne per avere informazioni su cosa sta accadendo ai servizi di IVG, interruzione volontaria di gravidanza e più in generale al diritto alla salute delle donne. Che testimonianze vi sono arrivate e in che direzione si sta evolvendo la situazione? E Eleonora ci ha risposto: nel nostro paese l'accesso all'aborto viene regolarmente negato o reso impossibile, seppure sia uno dei servizi indifferibili che rientra nelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è sempre tenuto a offrire. La massiccia presenza di medici obiettori, i tagli alla sanità pubblica che hanno portato alla chiusura di molti reparti di IVG e consultori e una scarsa o parziale informazione che stigmatizza l'aborto sono solo alcuni esempi di come in Italia l'IVG non solo sia un tabù, ma sia di fatto ostacolata. All'interno di un quadro già così disastrato, l'emergenza Covid-19 ha peggiorato la situazione attuale. Ci sono arrivate segnalazioni di interi reparti di VG che hanno sospeso il servizio anche a causa della riconversione totale di alcuni ospedali a Covid-19, mentre molti consultori non sono più raggiungibili nemmeno al telefono. Tutto ciò senza comunicazioni chiare da parte dell'ASL e in un contesto che è in continua evoluzione. Abbiamo ricevuto già dai primi giorni segnalazioni di disservizi dal nord al sud Italia, non solo in Lombardia, dove le province di Lodi e Milano risultano essere quelle maggiormente coinvolte, ma anche dalla Toscana, dal Lazio, dalla Campania, dall'Abruzzo e dal Veneto. Ma l'interruzione di gravidanza non è una pratica sanitaria che si può rimandare. Per quale motivo, abbiamo chiesto a Eleonora, molti ospedali hanno bloccato l'accesso all'aborto farmacologico, optando, quando non ostacolato da mancanza di personale e obiezione di coscienza, per l'aborto chirurgico. L'aborto farmacologico, ci ha detto Leonora, rappresenta in Italia solo il 17,8% del totale delle IVG, in netta controtendenza rispetto agli altri paesi europei. Ad esempio in Francia sono il 60%, mentre in Portogallo il 70% del totale. Disallineato rispetto agli altri paesi europei e alle direttive dell'OMS, infatti, l'aborto farmacologico può essere effettuato solo fino al 49° giorno di gestazione e in regime di ricovero ospedaliero ordinario di 3 giorni, fatta eccezione per alcune regioni. Queste restrizioni non permettevano già prima una vera libertà di scelta tra i due tipi di intervento. In questa fase in cui molti ospedali hanno deciso di sospendere del tutto l'IVG farmacologica per via del periodo di ricovero, questa libertà viene del tutto negata. Vorremmo che questa emergenza ci facesse riflettere su quello che già prima non funzionava. Non vogliamo tornare a quella normalità che ci siamo lasciate alle spalle. Per questo chiediamo un radicale ripensamento dei tempi di attesa imposti dalla legge 194 e del ruolo svolto dall'aborto farmacologico che potrebbe sin da subito facilitare e velocizzare l'accesso all'aborto. Proprio per questo anche Obiezione Respinta sta conducendo una battaglia per l'introduzione dell'aborto telemedico. Ma, abbiamo domandato a Eleonora, di cosa si tratta e a che punto è la sua introduzione? L'aborto telemedico combina l'aborto farmacologico e la telemedicina, una pratica che consente alle pazienti di sfruttare le tecnologie di informazione e comunicazione digitali, come computer e dispositivi mobili, per accedere ai servizi sanitari da remoto. In questa fase l'aborto telemedico potrebbe consentire alle donne l'accesso alle cure per l'aborto farmacologico anche in caso di autoisolamento. In molti paesi le donne scelgono quotidianamente di effettuare un aborto farmacologico perché è meno invasivo e più privato dell'aborto chirurgico, ma come abbiamo già sottolineato, questo tipo di intervento viene ostacolato a livello procedurale. Nel nostro paese non esiste all'interno del dibattito pubblico nemmeno un riferimento all'aborto telemedico. Guardando oltre questa fase emergenziale, crediamo che l'estensione dell'accesso e dell'applicazione dell'aborto farmacologico in ambito extraospedaliero tutelerebbe l'autonomia e la libertà di scelta di chi vuole interrompere una gravidanza e garantirebbe una maggiore sicurezza, offrendo maggiore tempestività dell'intervento e minori rischi di complicazioni. Viaggio nella vita artistica di 5 esponenti del canto sociale e rivoluzionario, il tratteggio del profilo di queste meravigliose artiste che hanno lasciato, oltre che un repertorio importantissimo, purtroppo spesso con gli anni andato scemando, fatto di canti di lotta, ma non solo. Si parte dalla celeberrima Giovanna Marini, un punto fondamentale per quanto riguarda il repertorio dei canti di lotta, cantautrice, ricercatrice etnomusicale romana, è stata in fiorente attività dal finire degli anni 50, è tuttora in grandissima attività, la possiamo sicuramente ricordare per tantissime collaborazioni, come per esempio con il Nuovo Canzoniere Italiano, oppure assieme a Dario Fo, dove produrrà Ci ragiono e canto nel 66, uno spettacolo in cui la matrice primaria era sicuramente proiettare la condizione in cui era il mondo del proletariato in quel periodo, in un'Italia assolutamente molto scostante. Si prosegue poi con il consiglio delle discografie, per esempio con Giovanna Marini Ci sono molti suoi tradizionali lavori che fanno parte dei dischi del Soli, come per esempio appunto le canzoni di Bella Ciao, ma anche appunto Vi parlo dell'America, in cui appunto in questo brano lei racconta quello che ha vissuto quando è stata in America, oppure anche Chiesa Chiesa, fino venendo ai suoi repertori più recenti, come la ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde, per esempio. Non è l'unico omaggio che lei farà a grandi artisti durante la sua strepitosa carriera. Passiamo poi per la mondina Giovanna Daffini, no? Come anello di congiunzione abbiamo deciso di tenere proprio il nuovo canzoniere italiano, questa straordinaria musicista che nasce come musicista di strada e successivamente appunto abitando in provincia di Mantova, un luogo molto noto per la produzione di riso, diviene poi mondina e addirittura diverrà anche riconosciuta nel periodo della Resistenza per la sua reinterpretazione politica di alcuni repertori. Si prosegue poi con la meravigliosa Caterina Bueno. Anche lei, anche grazie a lei siamo venuti a conoscenza di numerosi canti popolari toscani andati purtroppo persi nel periodo del dopoguerra. Anche lei teniamo come anello di congiunzione il nuovo canzoniere italiano. Infatti lei collaborerà assieme alle colleghe Giovanna Marini, Giovanna Daffini e moltissime altro. Si propone poi anche una Paola Nicolazzi, molto, molto giovane addirittura in questo periodo, nel 75 lei diventa una vera e propria voce dell'anarchismo di quel periodo, purtroppo scomparirà a Carrara dopo una lunga ed estenuante malattia all'età di 81 anni, cantautrice dal cuore anarchico, legata peraltro da una storia d'amicizia molto importante con il collega Giorgio Gaber. Si prosegue poi con Maria Carta, lei memorabile cantautrice in grado di armonizzare e tenere come anello di congiunzione, perché è di questo poi che si va a parlare, canti popolari tradizionali sardi, quindi canti tradizionali del suo popolo a sonorità molto moderne e molto originali. Ecco, Maria Carta è molto amica di Elena Ledda che tutt'oggi con grande e meticoloso lavoro porta avanti la ricerca musicale di questa straordinaria cantautrice. Con questo ultimo intervento chiudiamo la puntata del podcast di A Rivista Anarchica. Vi invito ad inviarci dei feedback con commenti, suggerimenti, idee ai nostri contatti che sono la mail arivista@rivista.org. Su Facebook ci trovate alla pagina A Rivista Anarchica, su Twitter al profilo A Rivista Anarchica. Vi segnalo anche l'indirizzo del nostro sito www.arivista.org. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto, ci risentiamo alla prossima puntata.